Questa situazione è veramente assurda. Io non so più che cosa fare per cercare di tirar fuori qualcosa di decente da questi due. Ok, magari una situazione assurda si può risolvere con un po' di teatro dell'assurdo. Vediamo se una scena di Ionesco riesce a fare il miracolo. Dai, provate con questa tratta dalla cantatrice Calva per la prossima volta. E speriamo che funzioni. Poi ci si prepara per le orde di Publio, che ci tireranno pomodori. E meno di una pomodori non ce li tira. Ma gentile. Domanda, se ci tirano i pomodori d'estate, io ci fo una bella insalata. Ragazzi, ma per dire cose deficienti, voi siete bravissimi. Vi andrebbe tagliata addosso una trasmissione apposta, anche televisiva. Secondo me fareste milioni di ascoltatori, perché per vedere due strulli che dicono strullate, la gente fa a cazzotti. Se no, tutti questi social network che uno fa la cacca la mattina, fa la fotografia e dice: avete visto che ho mangiato ieri sera quel bel panino che ho postato su Instagram? Insomma, bando alle stupidaggini, qui da Venezia, là dove bucano le gondole e gli tocca chiamare il servizio vaporetto, ci hanno mandato un bel dialogo dal teatro dell'assurdo, quello di Ionesco il francese. E sì, va bene, i francesi sono assurdi di per sé, ma voi quando recitate siete ancora più assurdi di loro. Ma a Venezia dove hanno messo i tornelli nel ponte? Forse sì, forse no. Chissà come ha fatto a passare da tornelli. Dai, Julian, incaliamoci nei nostri personaggi. Io stasera farò il signor Smith e tu farai la signora Smith. Sei pronto? Sono prontissima. Sono prontissima. Come Stanislav, insomma. Una pizza masaniella. Dai, iniziamo. E forza! E cominciate! State. Sempre a perdere tempo a dire stupidaggini, avanti! Ma chi vi ha mangiato il cervello? Guarda un po', c'è scritto che Bobby Watson è morto. Dio mio, poveretto, e quando è morto? E perché ti stupisci? Lo sai benissimo, è morto 2 anni fa. Siamo andati ai suoi funerali, ricordi? 1 anno e mezzo fa. E certo che me ne ricordo, me ne sono ricordata subito, ma non capisco perché tutti sia stupito vedendolo sul giornale. Sul giornale non c'è, sono già 3 anni che si è parlato del suo decesso, me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato, era così ben conservato. Era il più bel cadavere della Gran Bretagna, non dimostrava la sua età, povero Bobby. Erano 4 anni che era morto ed era ancora caldo. Un vero cadavere vivente, com'era allegro. Povera Bobby. Vuoi dire povero Bobby? No, penso a sua moglie. Lei si chiamava come lui, Bobby Watson. Siccome avevano lo stesso nome, non si riusciva a distinguerli l'uno dall'altra quando li si vedeva insieme. È stato solo dopo la morte di lui che si è potuto sapere con precisione chi fosse l'uno e chi fosse l'altra. Tuttavia ancora oggi c'è gente che la scambia per il morto e le fa le condoglianze. Te la conosci, ad esempio? Ma non l'ho vista che una volta, per caso, al funerale di Bobby. Io non l'ho mai vista, ma è bella? A tratti regolari, eppure non si può dire che sia bella. Troppo alta e troppo massiccia. I suoi tratti non sono regolari, eppure la si potrebbe dire bella. È un po' troppo piccola e magra. È insegnante di canto. Ah, ma questo è un valletto, o no? La pendola, no. Sono la pendola, lunga pausa. Sembrava, ok. E quando pensano di sposarsi quei due? La primavera prossima, al più tardi. Bisognerà per forza andare al matrimonio. E bisognerà anche fare un regalo. Mi domando quale. Perché non gli regaliamo uno dei 7 piatti d'argento che ci hanno dato per il nostro matrimonio e che non ci sono serviti a nulla? È triste per lei essere rimasta vedova così giovane. Per fortuna che non hanno figli. Non ci sarebbe mancato altro che questo. I figli, povera donna, che cosa ne avrebbe mai fatto? È ancora giovane, può benissimo riposarsi. Il lutto le sta così bene. Ma chi si prenderà cura dei figli? Lo sai che hanno un bambino e una bambina? Come si chiamano? Bobby e Bobby. Come i loro genitori. Lo zio di Bobby Watson, il vecchio Bobby Watson, è ricco e vuol molto bene al bambino. Potrebbe incaricarsi lui dell'educazione di Bobby. Sarebbe logico. E la zia di Bobby Watson, la vecchia Bobby Watson, potrebbe benissimo incaricarsi per parte sua dell'educazione di Bobby Watson, la figlia di Bobby Watson. Così la mamma di Bobby Watson, Bobby, potrebbe riposarsi. Ha qualcuno in vista? Sì, un cugino di Bobby Watson. Ma chi? Bobby Watson? Di quale Bobby Watson parli? Di Bobby Watson, il figlio del vecchio Bobby Watson, l'altro zio di Bobby Watson, il morto. No, non è quello, è un altro. È il figlio della vecchia Bobby Watson, la zia di Bobby Watson, il morto. Vuoi dire Bobby Watson, il commesso viaggiatore? Tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori. Ah, che mestieraccio. Eppure si guadagna anche bene. Ah sì? Quando non c'è la concorrenza, forse. E quando non c'è la concorrenza? Il martedì, il giovedì e il martedì. Ah, 3 giorni alla settimana? E che fa Bobby Watson durante tutto quel tempo? Si riposa, dorme. Ma perché non lavora durante quei 3 giorni se non c'è la concorrenza? E non posso sapere tutto. Fai delle domande stupide. Ragazzi, se c'è un morto è il teatro, se c'è un funerale è quello della recitazione e se c'è qualcosa di assurdo siete voi due, non ce la faremo mai! Vabbè, anche Bobby Watson, il figlio di Bobby Watson, il nipote di Bobby Watson, quell'altro Watson, Watson. Però il pubblico ha gradito, no? Pubblico quantomeno non ci ha tirato i pomodori. Non quindi... ha preferito parola. Perfetto, quindi non c'è bisogno di portare l'insalata, si porterà un'altra erba. Il pubblico gradisce aspettarvi qui fuori e prendervi a cazzotti. Scappate ora che siete in tempo. Vabbè, avanti si manderà Bobby Watson, eh? Vai, vai Bobby, vai, prima tu. Teatro epico è quello di Bertolt Brecht. In questo teatro epico di Bertolt Brecht vedremo ci sarà un procedimento molto importante, che è quello dello straniamento. Attraverso questo procedimento si presenta uno spettacolo teatrale in cui i personaggi invitano lo spettatore a non immedesimarsi con loro, anzi rompono proprio quella che è la finzione scenica, la finzione teatrale che sta alla base di gran parte degli spettacoli teatrali, no? E in questo modo gli spettatori sono educati a usare la loro testa, perché, dice Bertolt Brecht, quando noi ci medesimiamo troppo in un'azione teatrale è come se l'autore ci volesse condurre dove vuole lui. Invece io voglio che voi spettatori pensiate con la vostra testa,